Continua l'ordinaria situazione di occupazione militare, di colonizzazione e di apartheid in Palestina. Questa occupazione militare che dura dal 67, dimenticata, adesso ovviamente la questione palestinese passa in secondo, in terzo ordine, e tutta l'attenzione dei media è concentrata sulla guerra in Ucraina, giustamente, perché ovviamente siamo di fronte a eventi drammatici che portano sofferenza a milioni di civili e che avranno conseguenze di lungo periodo per tutti noi. Su questo punto, come Movimento BDS, vogliamo dire che siamo contro questa guerra, contro tutte le guerre, sia che si tratti dell'aggressione illegale della Russia in Ucraina, oggi che viola la Carta delle Nazioni Unite, indipendentemente dalle persistenti provocazioni della NATO, e di tutte le altre guerre palesemente illegali e immorali degli ultimi decenni che sono state guidate dagli Stati Uniti o dalla NATO, che hanno devastato intere nazioni e ucciso milioni di persone. Detto questo, appunto, vogliamo continuare a parlare di Palestina, vogliamo continuare a portare l'attenzione su quello che sta succedendo lì. Quello che sta succedendo in questi giorni, vediamo appunto questa ripresa delle tensioni attorno alla spianata delle moschee. Durante il mese del Ramadan ci sono state provocazioni da parte dei coloni e delle forze di sicurezza israeliane che hanno permesso ai coloni di entrare nella spianata di Al-Aqsa e pregare lì. Lo status quo internazionale, gli accordi internazionali prevedono che ai non musulmani sia permesso di visitare la spianata delle moschee, ma non di fare dei riti religiosi lì. Vediamo invece appunto che queste cose sono state fatte, addirittura volevano fare dei sacrifici di pecore durante il Ramadan, e abbiamo visto come questo ha scatenato una reazione da parte dei fedeli musulmani, per cui la spianata delle moschee, la moschea di Al-Aqsa, il Dome of the Rock, sono uno dei tre luoghi più sacri dell'Islam. Anche ieri, in occasione della festa dell'indipendenza israeliana, che cade in maniera variabile perché segue il calendario ebraico, anche ieri c'è stata una marcia di 600 coloni sulla spianata delle moschee, guidati dal parlamentare Yehuda Glick, che è uno dei promotori del movimento che vuole la costruzione del tempio distruggendo la moschea di Al-Aqsa. Questi coloni sono stati scontati dalle forze di sicurezza, sono entrati sulla spianata delle moschee pregando e sventolando le bandiere israeliane, mentre i fedeli musulmani sono stati tenuti fuori. È chiaro che questo ha provocato anche una reazione da parte dei fedeli palestinesi che stavano dentro la spianata delle moschee, che avevano trascorso la notte in una delle moschee. Lo schema è abbastanza tipico, nel senso che come dire, Israele porta avanti, i coloni portano avanti provocazioni, poi se c'è qualche reazione servono da pretesto per cominciare operazioni militari. Questo è un po' uno schema rodato, no? Sì, dunque teniamo presente che nei giorni scorsi ci sono stati 500 arresti di palestinesi durante questi scontri sulla spianata del moschee. Sono stati arrestati appunto oltre 550 anche ieri, e ci sono stati 150 feriti, insomma più quelli che si stanno aggiungendo in questi giorni. È chiaro che siamo in una situazione di esasperazione da parte dei palestinesi che non hanno prospettive politiche. Vediamo anche reazioni che sono da condannare, come gli attacchi ai civili israeliani, ma dobbiamo tenere conto appunto che questo è il frutto di una situazione di esasperazione, di mancanza di prospettive per i palestinesi, che sono sottoposti ormai a decenni e decenni di colonizzazione, occupazione militare e un sistema di apartheid che è stato denunciato in maniera chiarissima da moltissime organizzazioni per i diritti umani internazionali israeliani. Fra questi ricordiamo i rapporti appunto che sono stati rilasciati nel corso degli ultimi due anni da parte di B'Tselem, che è la più grande organizzazione per i diritti umani israeliani, da parte di Human Rights Watch e ultimamente da parte di Amnesty International. Tutte queste organizzazioni dicono che Israele impone ai palestinesi un regime di apartheid. Israele è responsabile di un crimine di apartheid e di oppressione nei confronti palestinesi, che è un crimine previsto ai sensi del diritto internazionale. Questa occupazione è talmente tanto incancrenita che diventa anche fonte di guadagni commerciali, di entrate commerciali per Israele, ed è per questo che una delle azioni che viene portata avanti anche dalla campagna BDS riguarda un'iniziativa dei cittadini europei per una raccolta di firme. Ce ne vuoi parlare? Questo questa iniziativa dei cittadini europei è un meccanismo dell'Unione Europea che prevede che i cittadini europei possono raccogliere 1 milione di firme e quando è stato raccolto 1 milione di firme l'Unione Europea, la Commissione Europea è tenuta a prendere in considerazione le proposte che vengono fatte dai cittadini europei. In questo caso parliamo di una petizione all'interno di questo meccanismo che chiede lo stop al commercio con gli insediamenti illegali nei territori occupati. Quindi non parliamo solo dei territori occupati palestinesi, ma di tutti i territori occupati dovunque essi si trovino. E fra questi ricordiamo per esempio il Sahara occidentale, che è occupato illegalmente dal Marocco, e anche lì è in atto un processo di colonialismo di insediamento, cioè c'è il trasferimento di popolazione della potenza occupante nei territori occupati, cosa che ovviamente è sanzionata dal diritto internazionale e costituisce un crimine. Come sappiamo, nei territori occupati palestinesi ci sono, in Cisgiordania e inclusa Gerusalemme Est, ci sono ormai quasi 800.000 coloni. Si chiede lo stop al commercio con gli insediamenti illegali nei territori occupati. Non si tratta di una richiesta di sanzioni, ma semplicemente la richiesta di applicazioni delle norme dell'Unione Europea, una coerenza con l'applicazione di una norma generale del commercio già esistente nel rispetto del diritto internazionale da parte dell'Unione Europea. Questa cosa non è una campagna del BDS, nonostante BDS Italia sia tra le organizzazioni che promuovono questa campagna, ma in Italia abbiamo organizzazioni ben più importanti di BDS Italia. Per quanto riguarda le misure che vengono intraprese nei confronti di chi occupa illegalmente dei territori o di chi viola il diritto internazionale, i diritti umani, vediamo sempre questa solita situazione di due pesi e due misure. La vediamo adesso appunto nei confronti di quello che sta succedendo in Ucraina. La comunità internazionale è stata prontissima a introdurre sanzioni contro la Russia, ma appunto non è stata così veloce per quanto riguarda sanzioni contro altri paesi che violano il diritto internazionale e i diritti umani, tra questi Israele appunto. Un messaggio molto molto razzista. Quando ci sono dei profughi che hanno la pelle più chiara, le porte sono aperte, quando i profughi hanno la pelle più scura si fanno annegare nel mare Mediterraneo, vengono respinti violentemente alle frontiere, quando ci sono paesi amici che violano i diritti umani, il diritto internazionale, si chiude un occhio e continua una situazione di impunità come succede per Israele, mentre con altri ovviamente ci sono atteggiamenti diversi.